4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E ancora una volta, buonasera, bentornati amici dei motori, e questa è la possibilità di seguire una trasmissione decisamente in forma, visto che di motori si parla tutti i giorni. Noi cerchiamo di star dietro alle tantissime novità che in realtà ci sono, novità che provengono dal mercato dei motori, dal mercato prodotti, dai tanti convegni e congressi che in giro per il mondo cercano di capire quale possa essere il futuro di questo settore così tanto inserito all'interno di un anno difficile. Eppure ne abbiamo viste un po' e sentite di tutti i colori, soprattutto quest'anno. Oggi parleremo di Porsche GT3, sentirete un commento abbastanza preciso di Marco Perucca, che tra poco è al telefono con noi. Gomme invernali, siamo andati in pista a Varano de Melegari per provare l'efficacia delle gomme invernali sotto i 7 gradi, ne parleremo ancora, sapete che è un argomento a cui teniamo moltissimo. E Fly and Fit, la possibilità di far fare un tagliando alla propria auto mentre siamo via con l'aereo, intanto l'auto sta in un piazzale, tanto vale approfittare di quel tempo. L'inchiesta invece è dedicata alle trazioni a confronto, una sfida tra SUV con trazione integrale e trazione invece anteriore, e chiuderemo la grande con Top Gear, che ci racconta le prove più performanti delle supercar di questo mese. Allora, buonasera da Quattro Ruote a Marco Perucca. Ciao Marco. Ciao Roberto, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ormai noi associamo il tuo nome alle più belle auto del mondo, e questa volta ne presentiamo una che credo che salga di diritto sul podio. Dimmi tu se sbaglio, ma Porsche GT3. Sì, a mio modesto parere è sicuramente la 911 più bella da guidare, la più emozionante e tecnicamente interessante, più ancora della Turbo, anche se meno potente. Ecco, cerchiamo di capire che differenza ci sia. Ormai sulla 911 un must di casa Porsche, che differenza c'è però anche nel mercato, nella proposta Porsche, fra una Turbo con tantissimi cavalli e un GT3 che anche nell'estetica, se andrete sul nostro sito, su quello di Quattro Ruote, a vederla, è decisamente sportiva. Diciamo che la Turbo rimane tra virgolette comunque una Gran Turismo di elevatissime prestazioni, ma con un impiego anche normale, quotidiano, di tutti i giorni. La GT3 invece è un'auto con motore aspirato, 6 cilindri boxer, ma portato a un livello di efficienza e di potenza tipico di un'auto da corsa, quindi è un'auto dove si punta tutto sul piacere di guida, sull'uso anche in pista, insomma estremo dell'auto, è difficile poterla utilizzare tutti i giorni, è possibile, lo si può fare, però non è certo il suo campo migliore. Ecco. Non è stata sicuramente progettata per questo impiego, è chiaro. Noi cercheremo di capire perché è definito molto pistaiola, fra poco. Adesso invece scopriamo le caratteristiche tecniche con la scheda della Porsche GT3. Basta poco per lasciarsi conquistare dalla nuova Porsche GT3. Dalle gomme semi-slick ai sedili di carbonio rivestiti di tessuto antifiamma, dal roll bar posteriore all'enorme spoiler. È sufficiente una rapida occhiata per convincersi che il mondo delle corse non è poi così lontano. Sotto il cofano scalpitano ben 435 cavalli, capaci di regalare impagabili allunghi. Ottimo lo sterzo, solo un po' troppo leggero alle velocità più elevate, ma permette di impostare le traiettorie con la precisione di un bisturi. La GT3 magari rinuncia a parte della versatilità delle altre 911, ma la sua missione è unicamente il piacere di guida, e fare qualche sacrificio vale senza dubbio la pena. Nome: Porsche 911 GT3, carrozzeria, due porte a due posti, dimensioni e pesi, lunghezza 4,46 m, peso 1470 kg, motore posteriore longitudinale 6 cilindri, potenza 435 cavalli, trasmissione, trazione posteriore, cambio manuale a 6 marce, prezzo 119.011 euro. Bene, queste sono le caratteristiche principali della Porsche GT3, allora cerchiamo di capire come si comporta e in pista, perché Marco, credo tu l'abbia provata proprio lì, vero? Sì, l'ho usata sia nell'uso quotidiano sia in pista, e diciamo leviamoci subito il sassolino dalla scarpa, come si dice, per l'uso quotidiano. È un'auto effettivamente impegnativa da usare tutti i giorni, ti dico solo che la frizione è estremamente pesante, il cambio ha innesti duri, abbastanza precisi, insomma l'assetto è rigidissimo, anche pur a controllo elettronico, per cui è possibile impostarlo su due posizioni, ma anche in posizione comfort, devo dire, il comfort è altra cosa, ecco. Le cose cambiano quando si va in pista o comunque ci si può esprimere liberamente su strade libere, insomma, da traffico e da limiti. E allora viene fuori tutta la tecnologia Porsche. Il motore della GT3 è solo lontano parente di quello delle altre carriere. È un 3008 che gira addirittura 8500 giri minuto, la potenza 7600, ma poi allunga fino a 8500 proprio come un motore da corsa, ed eroga 435 cavalli. Ci sono più o meno due mondi: fino ai 4500 giri è ancora un motore, diciamo, quasi trattabile, poi diventa un urlo da corsa ed è adrenalina pura, veramente molto bella. Le prestazioni sono ovviamente di conseguenza: abbiamo fatto uno 0-100 in 4-3 secondi, 200 all'ora si raggiungono in poco più di 13 secondi e poi si arriva a 300 praticamente in poco, veramente. Però non è questo, non è solo questo, ovviamente è l'assetto, che è estremamente rigido, tipicamente sportivo, sì, e che comporta ovviamente una tecnica di guida particolare, perché non dimentichiamoci mai che, come tutte le 911, anche questa ha il motore posteriore a sbalzo dietro la sella dietro, e quindi la tecnica di guida, se si vuole andare veramente forti, è abbastanza particolare e diversa da quella delle altre sportive. L'avete capito, si tratta di un'auto davvero particolare, molto specialistica, e sicuramente il suo impiego è dedicato alla pista, a delle gare. Poi chiederò a Marco se sono previste delle gare, dei trofei, però anche il turno libero, così come si chiama la possibilità di andare a girare in pista affittando dei turni a tempi, dà grandissime soddisfazioni, ammesso che uno ovviamente sappia guidare. Questa però è un'auto che si può portare anche su strada. Allora cercheremo di capire che senso ha costruire e progettare anche auto così ricche di cavalli per poi un uso stradale. Mi viene in mente la Turbo o tutti gli altri motori meravigliosi che Porsche ha tirato fuori in questi anni. Noi adesso ascoltiamo invece la Pagella, che darà i voti a questa GT3, e poi ci salutiamo con Marco. Posto guida. I sedili racing si pagano cari, 3.000 euro, ma sono parte integrante del sapore della GT3, 5 stelle. Finiture. Rispetto a una carrera è spoglia, come sportività comanda. Ciò che c'è però è molto ben fatto, 5 stelle. Comfort. Né morbida né silenziosa, ma se vi sembra troppo scomoda, semplicemente non è l'auto per voi, 2 stelle e mezzo. Su strada. Gratificante come tutte le 911, incisiva come un'auto da corsa. L'ESP veglia sulla sicurezza. 5 stelle. E questi erano i voti per la Porsche GT3. Siamo in compagnia di Marco Perucca di Quattro Ruote. Ha avuto il piacere di guidarla sia in pista, al suo terreno d'elezione, e in città. Allora Marco, dicevo prima, insomma, i limiti sono sempre più evidenti, eppure le case automobilistiche sono in qualche modo costrette a donare sempre più cavalli nei loro progetti ai motori, a cercare le prestazioni migliori. Oggi si parla da qualche anno, anzi, di diminuzione dei consumi anche sulle supercar. L'auto, la domanda di sempre è questa: che senso ha, no, avere 500 cavalli su un turbo piuttosto che su un grande motore aspirato e non usarlo in pista? Ma il senso, c'è per gli appassionati, che per fortuna ci sono sempre, che amano questo genere di vetture e le vogliono sempre più raffinate, sempre più diciamo accattivanti. Una GT3 ha senso anche nel box di casa, nel senso che se si è appassionati basta aprire il garage, guardarla, guardare quei cerchi meravigliosi con il dato centrale, tipico delle auto da corsa, salire in macchina con il sedile in guscio in carbonio, si gira la chiave, parte i 6 cilindri e poi vabbè, ci si incanala nel traffico e via. Però anche solo l'idea di avere un oggetto di questo genere, capace di queste prestazioni e al limite appunto di poter essere guidato in un certo modo, è una soddisfazione credo unica per chi ovviamente ha molti soldi e una grande passione, insomma un grande giocattolone per adulti. Ultima cosa e ci salutiamo: noi sul nostro sito abbiamo messo la foto della GT3 RS, sai, quella arancione e nera con un bel sovrasterzo di potenza naturalmente in pista. Che differenza c'è fra la GT3 di cui abbiamo parlato oggi con te e la RS che invece i nostri ascoltatori potranno potranno gustare su radio24.it nella sezione quattro ruote dintorni, Marco. Ma l'RS è proprio diciamo studiata per l'uso in pista e per i trofei che la Porsche fa ogni anno sui circuiti di tutto il mondo, e per cui è ancora un pochino più esasperata di questa. Il motore è lo stesso, però l'assetto è ancora più allargato, più bassa, più rigida, poi soprattutto con sospensioni che possono essere regolate ovviamente in officina a seconda dei circuiti e rapporti di cambio diverso, insomma cose di questo genere che la rendono ancora più idonea all'uso in pista. Ho capito, molto bene, grazie davvero a Marco Perucca di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Bene, buona serata a tutti, un saluto. Allora, chiusa la prova della GT3, adesso ci occupiamo di quei pochi centimetri quadrati che ci collegano all'asfalto, perché sia che noi abbiamo una Panda, sia che abbiamo la Porsche GT3 con tutto quello che passa in mezzo, insomma sono pochi centimetri quadrati che ci collegano con il terreno, e alla fine sono più importanti quelli di tanti altri, di tante altre caratteristiche. Ne parliamo con il direttore di Assogomma, si chiama Fabio Bertolotti, è già stato nostro ospite. Allora, direttore, buonasera, bentornato. Buonasera. Ci avete portato, dico ci avete nel senso alcuni giornalisti, in pista a Varano de' Melegari per testare delle gomme, degli pneumatici molto particolari. Ne abbiamo parlato 2 settimane fa, lo facciamo questa sera con lei, lo rifaremo nelle prossime settimane. Sono i cosiddetti pneumatici invernali. Siccome anche nella denominazione c'è una certa confusione, approfitto della sua presenza per raccontare agli ascoltatori perché si chiamano invernali e non da neve, per esempio. Ma si chiamano invernali, devono essere chiamati invernali, anche qualcuno li chiama ancora da neve, retaggio del codice della strada, qualcuno li chiama termici, qualcuno li chiama lamellari, il corretto termine invernali perché sono una risposta precisa a condizioni tipiche che si verificano nel periodo invernale, cioè quando le temperature scendono sotto i 7 gradi e, lo sottolineo, senza la necessità che il manto stradale sia innevato. Quando poi il manto stradale è innevato, non richiedono il montaggio delle catene. Ecco, quest'ultima è importante, anche in presenza di quel segnale avete presente che ingiunge insomma il montaggio delle catene. Quattro Ruote nel numero ancora in edicola di cui abbiamo parlato 2 settimane fa ha fatto una prova su neve, quando una vettura dotata di pneumatici invernali sulla neve fa una frenata di emergenza e si ferma, quindi arriva a 0 km/h, la stessa vettura con pneumatici estivi viaggia ancora a una velocità di 35 km/h, questo è un dato clamoroso. Sull'asciutto e sul bagnato in realtà questa differenza diminuisce, ma c'è ancora. Quindi quando si utilizzano al meglio e con che temperature gli pneumatici invernali, direttore? Ripeto, i pneumatici invernali hanno il loro massimo e migliore utilizzo quando le temperature scendono sotto i 7 gradi, e questo si verifica in tutta Italia in 3 mesi dell'anno, cioè dicembre, gennaio e febbraio, in qualsiasi provincia italiana, capoluogo. L'unico che fa differenza è Reggio Calabria, che ha una temperatura media in questi 3 mesi di 8 gradi, quindi una differenza assolutamente minimale. Quindi è un impiego che potrebbe essere tranquillamente diffuso su tutto il territorio nazionale, e in assenza di neve abbiamo, e voi giornalisti l'avete potuto verificare con i vostri occhi, fatto girare una vettura priva di conducente, quindi totalmente robotizzata a Varano, una Maserati, quindi non, ma poteva essere anche una Panda, non avrebbe, anzi il risultato sarebbe stato ancora più eclatante. La differenza dello spazio di frenata a 80 km all'ora in condizioni di asfalto che non era assolutamente innevato, ma aveva una temperatura di 5 gradi e mezzo, la differenza, ripeto, tra un equipaggiamento estivo e un equipaggiamento invernale è stato di 6 metri, quindi 30 contro 24, cioè il 20% in meno, una differenza sostanziale che vuole dire la differenza tra un tamponamento sì o no. Eh sì, 6 metri non sono pochi, pensate, fermarsi in 30 metri, fermarsi invece in 24. Se qualcuno si chiede perché è stato fatto questo esperimento robotizzato, è chiaro, per eliminare tutte quelle manovre che un pilota può fare anche per quanto bravissimo senza volerlo fare, ma che possono influire in qualche modo sulla efficienza della prova. Quindi in questo modo era un robot che guidava la macchina, la velocità era confermata in entrambi i casi e si è fermata 6 metri prima. Che cosa manca secondo lei alla cultura dei nostri automobilisti, forse anche ai nostri rivenditori, per raggiungere la sicurezza invernale che c'è in altri paesi, oppure le temperature più miti sono comunque un problema per noi? Ma allora, innanzitutto noi come paese non abbiamo temperature più miti rispetto ad altri. Se confrontiamo la situazione italiana rispetto media, rispetto a quella tedesca, dove in quel paese ormai quasi tutte le vetture, ormai c'è quasi il 100% delle vetture che ha un doppio treno di gomme, quindi scarpe estive in estate, scarpe invernali e in inverno, e addirittura in quel paese se un automobilista equipaggia la propria vettura non in condizioni idonee al periodo stagionale, l'assicurazione non liquida il danno, quindi poi c'è un effetto immediato. Ma le temperature tra l'Italia e la Germania sono mediamente di un grado solo superiore, quindi praticamente sono due paesi che sono paragonabili, ma che hanno una cultura diversa, che nasce certamente da un diverso atteggiamento del codice della strada. Devo dire a ragion veduta che a distanza di 4 anni da quando abbiamo iniziato queste attività di informazione attraverso i vari media e attraverso, diciamo, queste campagne sociali che facciamo, anche il nostro paese ha cominciato a vedere una diffusione sempre più diffusa di pneumatico invernale. 5 anni fa era meno dell'1%, oggi siamo al 12%. Probabilmente l'inverno che sta iniziando raggiungeremo quote ancora maggiori, però siamo molto lontani ancora dal 50+% che esiste in tutti gli altri paesi. Bene, noi siamo qua per questo, anche per diffondere questa cultura che salva la vita, e quindi è una cultura decisamente importante. Grazie Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, a presto e buona serata. Grazie a voi e buon viaggio sicuro. Buon viaggio sicuro, giustamente. A proposito di viaggio, ma quando andiamo in viaggio in aereo, lasciamo l'autovettura in un parcheggio, la ritroviamo di solito con 2 dita di polvere se all'aperto o tale quale se è al chiuso. A qualcuno è venuta un'idea interessante, Fly and Fit, approfittare di quel periodo in cui l'auto è ferma per fare qualche cosa di utile proprio all'auto. Ce ne parlerà il nuovo direttore commerciale marketing di Park to Fly, si chiama Maurizio Di Lallo. Caro Maurizio, buonasera. Benvenuto. Buonasera anche a voi e anche a tutti gli ascoltatori. Direttore, che cos'è Park to Fly? Park to Fly è un network di parcheggi, gestiamo 10 parcheggi in tutta Italia, e quindi non soltanto negli aeroporti del nord tipo Malpensa, Linate, Bergamo, Verona, ma siamo anche a Bologna, siamo anche a Torino, siamo anche a Roma. In pratica abbiamo, in collaborazione con Fiat, pensato a un qualcosa di creativo, quindi quando la macchina non è utilizzata, pensare un po' anche alla macchina. Fit sta per fitness, in questo ormai mondo in cui siamo tutti dediti alla palestra, al fisico, abbiamo pensato di trattare bene anche la nostra vettura, anche in termini di sicurezza e quant'altro. Non c'è mai tempo per portarla a fare i soliti tagliandi di manutenzione, abbiamo pensato di sfruttare i parcheggi, e quindi quando la macchina non è utilizzata, perché uno o in vacanza ma anche per lavoro ci vogliono almeno un 3-4 giorni che la macchina sia ferma, un'autofficina Fiat autorizzata che è in prossimità degli aeroporti che le ho detto prima, prenderà l'autovettura, la porterà in officina, farà il tagliando che preventivamente è stato richiesto attraverso il sito internet o di Park to Fly, che è www.parktofly.it, oppure attraverso i siti Lancia, Alfa Romeo e Fiat. L'auto, una volta che viene fatto il servizio di manutenzione richiesto, viene poi riconsegnata in parcheggio e il cliente ritorna con la sua macchina praticamente nuova. Consideri che non si fa soltanto tagliando, volendo si possono anche fare quei servizi di manutenzione anche straordinaria che generalmente vengono fatti una tantum, quindi dal cambio olio piuttosto che alle pasticche dei freni, piuttosto che anche altri servizi accessori. Decisamente, vedete come alle volte basta un pochino di creatività per aggiungere un servizio utile. Tra l'altro, quella della perdita del tempo non è un argomento da poco, perché sappiamo che molti nostri ascoltatori, per esempio, si lamentano del fatto che non ci siano sufficienti auto di cortesia, no, nei concessionari, e quindi devono in qualche modo portare l'auto, lasciarla un giorno intero per il tagliando, farsi accompagnare o prendere il taxi, i mezzi, insomma, questo crea dei problemi. Sfruttare un'autovettura che comunque rimarrebbe ferma per qualche giorno in un aeroporto è decisamente utile, ammesso che uno parta proprio nei giorni in cui ha bisogno di fare il tagliando, evidentemente, se no si fa una vacanza. Anche lì credo che sia anche un metodo, secondo noi, per organizzarsi, sempre nel rispetto anche della macchina, cioè nel senso che quello che diceva giustamente lei è la mancanza poi del tempo, quindi secondo noi la creatività significa cercare di magari organizzarsi e sfruttare queste opportunità, perché le opportunità ci sono, secondo noi vanno colte. Molto bene. Anche perché il mezzo, nel momento in cui è fermo, può fare altre cose tipo quella di tagliandi. È chiaro, di fare un po' di fitness. Molto bene, si chiama Fly and Fit, trattate bene la vostra vettura, se volete farlo c'è un sito www.parktofly.it. Grazie di Lallo, a presto e buona serata. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. L'inchiesta di oggi invece è dedicata ad una sfida molto particolare che trovate a pagina 174 di Quattro Ruote, ce ne parla Alessio Viola. Caro Alessio, buonasera e benvenuto. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Cosa avete fatto? Avete preso due auto uguali ma con trazioni entrambe diverse, quindi una Ford Kuga e una Volvo XC60, una con la 4x4, una con la 2x4 e in entrambi i casi quattro vetture che si sono sfidate. Mi dici, prima di capire che cosa è successo dopo la prova, il senso di questa prova? Sì, il senso della prova è abbastanza semplice. Molto spesso la gente compra le SUV non tanto per andarci fuori strada come inizialmente era per le SUV, quanto piuttosto per le doti di abitabilità, versatilità, insomma il tipico uso cittadino delle SUV. A quel punto il 4x4 non serve a nulla, le case se ne sono accorte e hanno cominciato a presentare la Volvo, la Ford, ma anche in passato la Kia, delle SUV solamente con la trazione anteriore. Sembrano un controsenso, in realtà non lo sono. Decisamente. Senti Alessio, allora la prova in che cosa esattamente è consistita? Come al solito ci siamo chiusi a Vairano e abbiamo cominciato a fare le nostre prove tecniche. Abbiamo fatto delle cose sull'asfalto, cioè sulle nostre classiche piste dove proviamo le auto, come dire, da strada, e poi anche qualche cosa l'abbiamo fatto sulla nostra pista di fuoristrada, dove appunto abbiamo visto le differenze fra il 4x2 e il 4x4, ed è qui che sono venute fuori le vere differenze fra la 4x2. Oh, così possiamo anche così distruggere, annientare, annullare qualche leggenda. Dunque, a chi consigliamo la 4x2 e a chi la 4x4? Beh, il risultato in un certo senso è scontato. Consigliamo la 4x4 a chi davvero ha bisogno di affrontare terreni difficili, dall'andare in montagna per il weekend a qualche cosa di più, lì ognuno poi deve vedere per sé. In realtà la gran parte della gente che si vede in città con le SUV consigliamo la 4x2, insomma. È chiaro, perché non è necessario fare oltre. E poi ti lascio lo spazio per una pillola finale sull'eventuale dubbio che può avere un ascoltatore, un automobilista, perché magari fa qualche sterrato ogni tanto, però fa molta percorrenza autostradale. Ecco, in questo caso è meglio essere un po' più sicuri sul fuoristrada, sullo sterrato, anche se ne fa poco, oppure insomma pensare magari ai consumi, pensare ai vantaggi del 4x2. A quel punto direi che la soluzione migliore sta nel mezzo, cioè la 4x2 con le ruote da neve, perché a quel punto hai tutta il risparmio, perché non hai la trazione integrale, hai tutto il risparmio che ti dà la 4x2, ma hai anche la sicurezza del 4x4, cioè una simil sicurezza del 4x4, una cosa un po' diversa, perché ricordiamoci che con le gomme da neve, ad esempio, siamo più sicuri anche in frenata. La 4x4 in frenata è come una 4x2 dal punto di vista strettamente della trazione. Dinamico, certo. Molto bene, grazie davvero ad Alessio Viola di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie. Ciao, arrivederci. Allora, chiudiamo invece in grande la nostra trasmissione con un appuntamento mensile a cui ormai siete affezionati, è quello con il mensile Top Gear, in qualche modo l'altra anima di quattro ruote, di chi è proprio appassionato, di chi ama guardare il mondo dei motori da un punto di vista forse un po' più sportivo, ma con la passione veramente in mano. Ci fa compagnia il direttore Marcello Minerbi. Allora, buonasera direttore, ciao e bentornato. Ciao, buonasera a tutti gli amici, oramai io vi considero dei veri amici. Sì, perché poi ci raduna quella passione, un po' come fra motociclisti, no? Noi ormai non abbiamo più barriere fra auto e moto e insomma quando ci si incontra con la stessa vettura sportiva ci si fa l'occhiolino, non si fa come alcune fanciulle fanno con la borsa extra lusso in discoteca che si guardano, no? Con il... Se facciamo le plebo di benzina non stiamo bene, dai. Bellissimo. Allora, senti, tu sei il nostro ospite questa sera per raccontare due, se riusciamo, tre chicche che si trovano sul mensile, insomma, che è appena uscito in edicola, il numero è dicembre, però per parlare di contenuti vorrei iniziare dal Giappone, Lexus. Allora, lo faccio con grandissimo piacere perché questa storia giapponese ha un sottofondo musicale assolutamente italiano. In pratica è la nuova Lexus LFA, che è una supercar tecnologicamente molto avanzata dal punto di vista meccanico, ma che per quanto riguarda la linea nasce, trae le sue origini dal prototipo, dalla concept che aveva fatto Leonardo Fioravanti. Leonardo Fioravanti è, nella storia del disegno automobilistico italiano, uno dei grandi. Lo dico e lo sostengo e lo sosterrò sempre, perché tanto per fare un esempio, le più belle Ferrari di una certa epoca, la Daytona e la Dino, portano la sua firma. Eh sì, questo e... decisamente ci dà anche un orgoglio, no? Visto che il design è spesso equiparato al Made in Italy e poi su un marchio così importante come quello che tu hai citato. Adesso i giapponesi che cosa hanno fatto? Gli hanno chiesto quindi di creare una vettura, il design della vettura sportiva. Gli hanno commissionato una concept, lui ha disegnato e realizzato a scala 1-1 questa concept che è stata sottoposta ai giapponesi. I giapponesi si sono dimostrati molto interessati al progetto e lo studio Fioravanti, insieme col centro stile della Toyota, hanno poi generato questa automobile nuova, la quale però il gioco delle superfici concave e convesse, che sembrano un po' rincorrersi, sono esattamente quelle che Leonardo Fioravanti aveva inventato sulla vettura originaria, quindi molto delle idee originarie sono rimaste, il che è una grandissima soddisfazione, perché quando si va in produzione partendo da un prototipo di sogno, da una show car, beh, insomma, parecchio viene cambiato lungo la strada. Qui invece è rimasto, ma soprattutto è rimasto lo spirito, perché Leonardo riesce a interpretare lo spirito delle grandi automobili con grande potenza e di grande divertimento. Perché oltretutto è un ottimo guidatore lui stesso. Quindi esatto, è appassionato di motori in prima persona. Invece un altro argomento interessante che si trova è un confronto diretto, senza peli sulla lingua, fra Porsche Panamera, la prima Porsche a quattro porte della storia del marchio tedesco, e la quattro porte della Maserati. Marcello. Che la Panamera sia una grande automobile è fuori di dubbio. Che la quattro porte sia un'altra grande automobile è fuori di dubbio. Però sono due automobili che, pur rivolgendosi allo stesso pubblico, hanno due clientele completamente diverse. Quanto più, diciamo, gelida, tra virgolette, super raffinata, molto cerebrale è la Panamera, tanto più sanguigna e tipicamente emiliana è invece la quattro porte, che trasuda sensualità tutte le cuciture della pelle dei suoi sedili. Le stesse cuciture che però tu trovi sulla Panamera sono le cuciture super raffinate eccetera eccetera di una poltrona di un dentista svizzero di Lugano. Tanto per dare un riferimento sulla perfezione, certo, e su quella caratteristica che tu dicevi, che poi si trasferisce anche a chi ci siede su quei sedili. Bello questo confronto. Amo sottolineare anche un'attenzione ai giovani con le tre porte sportive Renault, Suzuki, la 500 Abarth. Leggetevi l'articolo e chiudiamo con una nota un pelo più culturale. 30 secondi, ci salutiamo, Marcello. C'è un pezzo straordinario, è la rievocazione di un viaggio fatto da un tedesco poco prima della caduta del muro di Berlino al volante di una Skoda. I giornalisti lo hanno rifatto adesso viaggiando su una Skoda rifacendo lo stesso percorso. Leggetelo, perché ci sono delle memorie di prima mano di questo tedesco che sfuggiva all'orrore del comunismo di allora e racconta il suo avvicinamento alla libertà. Bellissimo, un altro modo per concepire le auto. Grazie davvero a Marcello Minerbi di Top Gear, grazie, a presto direttore. Ciao, grazie ancora a tutti voi. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che però torna puntuale sabato prossimo, sempre alle 21.05 qui su Radio 24 insieme agli amici di Quattro Ruote. Paolo è rimasto in regia con me, grazie Paolo per il tuo aiuto, Roberto Rasia vi ha parlato e vi augura soprattutto una buona guida.